chiedermi perché ancora sono triste dopo che sono avvicinata alla tua casa. Da notte ho visto la finestra della tua casa buia, le ombre vaghe di due persone. Da notte ho visto. Sarà felice lui che non so chi. Sarà molto felice finestra buia. Ero lì solo per capestare la terra e sono tornato senza parole perché era triste mio stare lì. Senza parole.